grigio, cielo blu, ma intanto tu, dove sei tu? E se va avanti così, io m'ammazzo giovedì. Tutto il giorno sto così, pensando a quando tornerai. E la speranza è sempre lì, e tu chissà dove sarai. E mentre un uomo prega, tu adesso dimmi con chi stai. Ma a te che te ne frega di tutto il male che mi fai. E allora senti cosa fo, soddisfazione non ti do, divento qualunquista, anarchico o radicale, e quando è carnevale il travestito fa. Sì vabbè, dicevi tu, l'indipendenza, ma ce l'hai, non ricordo quasi più. Da due mesi dove stai? Compro il pane e torno su. E io qui davanti alla TV. Compro il pane e torno su, ma non sei tornata più. E mentre un uomo prega, adesso dimmi con chi stai. Ma a te che te ne frega di tutto il male che mi fai. E allora cosa fo? Soddisfazione non ti do. Divento femminista. Mi vesto trasandato e quando al mare vado a culo nudo sto. Le scelgi, le scelgi blu, ma intanto tu dove sei tu? E se va avanti così io m'ammazzo giovedì. Porca zozza, ma lo sai qui il vicinato cosa fa? Quando passo ride e fa le corna quello là. E tu, tu brutta strega, a quanti uomini farai? Tua madre invece nega, non pensa al male che mi fai. E allora senti cosa fo, soddisfazione non ti do. Divento liberale e non pago più le tasse. E giuro mica scasse se dopo non lo fa. Non siamo più bambini, è quello che ci frega, e mentre c'è chi prega, c'è chi fuma al bar.